Capitolo 2. Giorni d'inverno e notti d'inverno. Vennero la prima neve e il gran freddo. Tutte le mattine papà prendeva il fucile e le trappole e stava via tutto il giorno nei grandi boschi a posare le trappole piccole lungo i torrenti per i topi muschiati e i bisoni e le trappole di media grandezza nei boschi per le volpi e i lupi. Posava anche le grandi trappole per gli orsi, nella speranza di catturarne uno bello grosso prima che tutti si tappassero nelle loro tane per l'inverno. Una mattina tornò a casa, attaccò i cavalli alla slitta e partì di nuovo di gran carriera. Aveva abbattuto un orso. Laura e Mary si misero a saltare per la gioia, batterono le mani al colmo della felicità. Mary urlava: «L'osso della gamba lo voglio io! L'osso della gamba lo voglio io!» Mary non lo sapeva quanto è grande l'osso della gamba di un orso. Quando papà tornò a casa aveva nella slitta anche un maiale, oltre all'orso. Mentre si addentrava nella foresta, con una gran trappola da orsi in mano e il fucile appeso a una spalla, girando intorno a un grande pino coperto di neve, si era trovato faccia a faccia con l'orso. L'orso aveva appena ucciso il maiale e stava per raccoglierlo e divorarselo. Papà disse che l'orso era ritto sulle zampe di dietro e che si teneva il maiale tra quelle davanti, proprio come se fossero state delle mani. Il babbo aveva sparato all'orso. Non c'era modo di sapere da dove era venuto il maiale o a chi apparteneva. Così, disse papà, ho pensato di portare a casa il prosciutto. E ci fu tanta carne da bastare per un bel pezzo. Tanto il giorno quanto la notte il freddo era tale che il porco in una cassa e la carne dell'orso appesa nella piccola capanna dietro la casa congelarono senza alcun pericolo di sgelare. Quando la mamma aveva bisogno di carne fresca per pranzo, il papà prendeva la scura e tagliava via un pezzo della carne d'orso e di porco congelata. I salami a pallottola, il maiale salato, i prosciutti e la cacciagione affumicata, la mamma poteva invece andarseli a prendere da sola nel capanno o in solaio. Seguitò a nevicare e la neve si accumulò alta contro la casa. Al mattino i vetri delle finestre erano coperti dagli alberi, dai fiori e dalle fantastiche immagini disegnate dal gelo. La mamma diceva che Gianni Brina veniva di notte e tracciava i suoi disegni mentre tutti dormivano. Laura era convinta che Gianni Brina fosse un omino tutto bianco che portava un candido berrettino con la punta, tutto scintillante, e un paio di stivali alti fino al ginocchio, fatti di pelle di daino. Il suo cappotto era bianco come le muffole. E non portava il fucile appeso dietro la schiena, ma reggeva tra le mani i piccoli strumenti lucenti che gli servivano per fare le sue incisioni. Laura e Mary avevano il permesso di prendere il ditale della mamma e imprimevano dei bei cerchi sulla crosta del gelo che si era formato sulle finestre, ma stavano sempre attente a non rovinare i bei disegni che Gianni Brina aveva fatto durante la notte. Quando mettevano la bocca vicino alla finestra e vi alitavano sopra, il candido gelo fondeva e scorreva poi a gocciole giù per il vetro. Allora potevano vedere fuori gli alti cumuli di neve e i grandi alberi che si ergevano spogli e neri e gettavano sottili ombre blu sulla neve candida. Laura e Mary aiutavano la mamma nelle faccende. Tutte le mattine c'erano le stoviglie da asciugare. Mary ne asciugava più di Laura perché lei era la più grande. Ma Laura asciugava sempre con molta diligenza la sua piccola tazza e il suo piatto. Mentre si asciugavano tutti i piatti e mentre venivano tutti riposti, il lettino con le rotelle aveva avuto il tempo di prendere aria. A questo punto, allora, una per lato, Laura e Mary ne tendevano bene le coperte, le rimboccavano con cura i lati e i piedi, sprimacciavano i cuscini e li mettevano al loro posto. Poi la mamma spingeva il lettino a rotelle sotto il letto grande. Era allora che la mamma cominciava il lavoro di quel giorno. Ogni giorno aveva il suo particolare lavoro. La mamma diceva spesso: «Il lunedì si fa il bucato, il martedì si stira, il mercoledì si rammenda, il giovedì si fa il burro, il venerdì si fanno le pulizie, il sabato si fanno i dolci e la domenica si riposa». A Laura i giorni della settimana che piacevano di più erano quelli del burro e delle torte. D'inverno il latte non scremato non era giallino come d'estate. E il burro che se ne ricavava era bianco e non tanto bello. A tavola la mamma voleva che tutto fosse bello, così d'inverno tingeva il burro. Dopo aver versato il latte intero nell'alto recipiente di maiolica, la zangola, e averlo posato vicino alla stufa perché si scaldasse, Lavava e spellava grattandola con il coltello una lunga carota di colore arancione. Poi la grattugiava sul fondo della vecchia padella di latta nella quale papà aveva fatto una quantità di fori con un chiodo. Strofinava la carota sulle asperità fino a che era passata tutta dall'altra parte dei fori. E quando alzava il recipiente, sotto la padella bucata si vedeva il morbido cumulo sugoso della carota grattugiata. Lo versava in un pentolino di latte sulla stufa e quando il latte era caldo, versava latte e carota in un sacchetto di tela. Poi spremeva il latte color arancione vivo nella zangola dove tingeva tutto il latte non scremato. Così il burro sarebbe stato di color paglierino. Dopo che ne era stato spremuto il latte, Laura e Mary avevano il permesso di mangiare la carota. Mary era convinta che gliene spettasse la parte più grande perché lei era la maggiore e Laura diceva invece che toccava a lei perché lei era la più piccola. Ma la mamma diceva che se la dovevano dividere in parti uguali. La carota era molto buona. Quando il latte intero era pronto, la mamma scottava il lungo bastone, lo calava nella zangola e infilava sul bastone il coperchio di legno. Questo coperchio aveva un buco tondo al centro e la mamma alzava e abbassava ripetutamente a lungo il bastone attraverso il buco. Agitava così il latte per molto tempo. Qualche volta Mary poteva agitare il latte nella zangola mentre la mamma riposava, ma per Laura quel bastone era davvero troppo pesante. Da principio gli schizzi di latte cremoso che affioravano intorno al buco del coperchio erano densi e uniformi. Dopo molto tempo cominciavano a essere come rappresi. Allora la mamma agitava più piano il bastone della zangola fino a che comparivano dei minuscoli grani di burro giallo. Quando la mamma toglieva il coperchio della zangola, il burro era tutto condensato in una palla dorata affogata nel siero. Allora tirava fuori con una paletta di legno la massa compatta, la metteva in un catino di legno e la lavava più volte in acqua fredda, seguitando a rivoltarli a lavorarla con la paletta fino a che l'acqua ne scorreva via limpida. A questo punto salava il burro. Era allora che veniva la parte più bella dell'opera. La mamma modellava il burro. Sul fondo mobile dello stampo di legno era incisa la figura di una fragola con due foglie. Con la spatola la mamma pigiava il burro ben bene nello stampo fino a che era colmo. Poi lo capovolgeva su un piatto e spingeva verso il basso il manico del fondo mobile dello stampo. Allora veniva fuori compatto il panetto di burro con la sua fragola e le sue foglie stampate sopra bene in rilievo. Laura e Mary assistevano trattenendo il fiato al fianco della mamma fino a che non aveva passato tutto il burro allo stampo e dallo stampo non erano usciti uno dopo l'altro tutti i pani di burro con la loro fragola stampata in cima, che alla fine stavano allineati sul grande vassoio. Poi la mamma dava a ognuno un bel bicchiere di siero appena fatto. Al sabato, quando la mamma faceva il pane, ciascuna delle bambine riceveva il suo pezzetto di pasta per farne una pagnottella. Ricevevano anche un pezzetto di pasta per i biscotti, per farne qualche piccolo dolce, e una volta Laura fece perfino una bella torta nella sua padellina. Terminati i lavori della giornata, qualche volta la mamma tagliava alle bambine le bambole di carta. Le ritagliava in una carta bianca e rigida e ne disegnava le facce con la matita. Poi ritagliava nella carta colorata i cappellini, i nastri e i pizzi in maniera che poi Laura e Mary potessero adornare le loro bamboline. Ma il momento più bello era quello del ritorno a casa del babbo. Rientrava dopo aver attraversato i boschi innevati, con dei minuscoli ghiaccioli che gli pendevano all'estremità dei baffoni. Appendeva il fucile alla parete, sopra la porta, si toglieva il berretto di pelo, il giaccone e i guanti e diceva: «Dov'è la mia piccola mezza pinta di cedro dolce già bevuta per metà?» Voleva dire Laura che era così piccola. Laura e Mary correvano ad arrampicarsi sulle sue ginocchia e vi si mettevano a sedere mentre papà si scaldava al fuoco. Poi lui si metteva di nuovo il berretto, il giaccone e i guanti, usciva a sbrigare le faccende e tornava con una grande quantità di legna per il fuoco. Qualche volta, quando aveva fatto in fretta il giro delle trappole perché erano vuote o quando aveva raccolto una preda più rapidamente del solito, papà tornava a casa presto. Allora aveva tempo di giocare con Laura e Mary. Un gioco che piaceva loro moltissimo era quello del cane arrabbiato. Papà si scompigliava i folti capelli bruni con le dita, poi si metteva in ginocchio e ringhiando rincorreva Laura e Mary per tutta la stanza, cercando di farle finire in un angolo dal quale le due bambine non potessero più scappare. Laura e Mary erano svelte a schivare papà e a scappare, eppure una volta papà le costrinse a ridosso della cassa della legna dietro la stufa. Davanti a loro avevano il babbo, dietro avevano la cassa. Non c'era via di scampo. Allora papà si mise a ringhiare in maniera così terribile, con tutti quei capelli scomposti e gli occhi così feroci, che sembrò proprio un cane arrabbiato. Mary ne ebbe tanta paura da non riuscire più a muoversi. Quando però papà si avvicinò, Laura lanciò un urlo e con un salto scavalcò la cassa della legna, tirandosi dietro anche Mary. E a quel punto non ci fu più nessun cane arrabbiato, ci fu soltanto papà, che in piedi fissava Laura con gli occhi azzurri scintillanti. Ma guarda un po', le disse, sei soltanto una mezza pinta di cedro già bevuta per metà e perbacco sei forte come un cavallino francese. Non dovresti spaventarle così le bambine, Charles, disse la mamma, guarda come hanno sbarrato gli occhi. Allora il babbo tirò fuori il violino e si mise a suonare a cantare Yankee Doodle. Laura e Mary si dimenticarono del cane arrabbiato mentre il babbo continuava a cantare. Papà batteva il tempo con un piede e Laura batté le mani a tempo di musica quando poi lui intonò Io canterò Yankee Doodle e io canterò Yankee Doodle Doo. Tutta sola nei grandi boschi selvaggi, con la neve e il freddo, la piccola casa di tronchi era piena di calore nella sua confortevole intimità. Papà, mamma, Mary, Laura e la piccolissima Carrie ci stavano comodi e felici, in particolare la sera. Allora la fiamma splendeva nel focolare. Il freddo, il buio, gli animali selvatici erano tutti chiusi fuori e Jack, il bulldog pezzato, e Black Susan, la gatta, stavano sdraiati a sbattere le palpebre al fuoco del caminetto. La mamma stava seduta sulla sedia a dondolo e cuciva al lume della lampada sul tavolo. La lampada spandeva una luce vivida. In fondo al serbatoio tondo di vetro c'era il sale, insieme al petrolio, perché il petrolio non scoppiasse. E tra i granelli del sale c'erano dei pezzetti di flanella rossa per bellezza. A Laura piaceva guardare la lampada col suo cilindro di protezione dal vetro così pulito e lucente, con la sua fiamma gialla che ardeva così costante, col suo serbatoio tondo pieno di limpido petrolio colorato di rosso dai pezzetti di flanella. Le piaceva guardare il fuoco che nel caminetto crepitava e cambiava continuamente colore. E ora bruciava giallo e rosso, ora verde vicino ai ceppi e che indugiava in blu sopra i carboni d'oro e color di rubino. E allora era il momento che papà raccontava le storie. Quando Laura e Mary lo pregavano di raccontare una storia, papà le faceva salire sulle ginocchia e faceva loro il solletico in faccia coi suoi lunghi baffi. Loro ridevano forte, gli occhi di papà erano azzurri e allegri. Una sera papà guardò Black Susan che si stiracchiava davanti al fuoco e tirava fuori e dentro gli artigli e disse: Lo sapete che la pantera è un gatto selvatico? No, rispose Laura. Bene, lo è proprio, ribadì il babbo. Immaginate che Black Susan sia più grossa di Jack, più feroce di Jack quando ringhia. In questa maniera sarebbe esattamente come una pantera. Sistemò Laura e Mary sulle ginocchia in modo che fossero più comode e poi disse: Vi racconterò del nonno e la pantera. Tuo nonno? Domandò Laura. No, Laura, tuo nonno, mio padre. Oh, disse Laura e si fece più piccola nell'abbraccio del papà. Lo conosceva il nonno. Stava lontano, lontano nei grandi boschi, in una grande casa di tronchi. E il babbo cominciò a raccontare la storia del nonno e della pantera. Un giorno vostro nonno andò in città e tardò poi a mettersi sulla strada del ritorno. Era buio quando arrivò a cavallo nei grandi boschi, tanto buio che quasi non vedeva la strada. Così, quando udì il grido della pantera, si spaventò perché era senza fucile. Com'è il grido della pantera? Domandò Laura. È come quello di una donna, rispose il babbo. Fa così e lanciò un urlo tale che Laura e Mary rabbrividirono di terrore. La mamma sussultò sulla sedia e disse: Per carità, Charles! Ma a Laura e Mary piaceva essere spaventate in quella maniera. Il cavallo del nonno, con il nonno in groppa, correva forte perché si era spaventato anche lui, eppure non riusciva a distanziare la pantera che lo inseguiva nel bosco buio. Era una pantera affamata e veniva avanti di corsa con la velocità di un cavallo. Ora lanciava il suo grido da una parte della strada, ora dall'altra, ma era sempre vicinissima. Il nonno si appiattiva sulla sella e incitava il cavallo a correre più veloce, ma il cavallo correva già al massimo delle sue possibilità e ciò nonostante ancora non riusciva a distanziare la pantera che dietro di lui continuava a gridare minacciosa. D'un tratto il nonno la vide saltare da una cima dell'albero all'altra, quasi sopra la sua testa. La pantera era enorme, nera, e faceva dei salti in aria come Black Susan quando salta su un topo. Era molto, molto più grande di Black Susan. Era tanto grande che se balzava sopra il nonno lo poteva uccidere, squarciandolo coi suoi artigli enormi e coi suoi lunghi denti affilati. Sul suo cavallo il nonno scappava davanti alla pantera, proprio come fa il topolino davanti al gatto. La pantera non gridava più e il nonno non la vedeva più. Sapeva però che stava arrivando, che lo inseguiva a grandi salti nella foresta buia alle sue spalle. Il cavallo galoppava con tutte le sue forze. E finalmente il cavallo arrivò al galoppo davanti alla casa del nonno. Il nonno vide la pantera che saltava verso di lui e allora balzò giù dal cavallo e si lanciò verso l'ingresso. Entrò di colpo e si sbatté la porta alle spalle. La pantera andò a cadere in groppa al cavallo proprio dove si trovava prima il nonno. Il cavallo fece un nitrito orribile e fuggì. Scappò di corsa nel fitto dei grandi boschi con la pantera che lo dilaniava. Ma il nonno afferrò il fucile dalla parete e andò alla finestra giusto in tempo per fulminare la pantera al primo colpo. Il nonno disse che non sarebbe mai più andato nei grandi boschi senza il fucile. Quando papà ebbe raccontato questa storia, Laura e Mary si strinsero a lui rabbrividendo. Si sentivano al sicuro sulle sue ginocchia, protette dalle sue forti braccia che le circondavano. Erano contente di essere lì, davanti al fuoco caldo, con Black Susan che faceva le fusa presso il focolare e il buon Jack steso accanto a lei. Quando si sentiva ululare il lupo, Jack alzava la testa e gli si rizzava il pelo su tutta la schiena. Ma Laura e Mary ascoltavano quell'ululato che si perdeva nel buio e nel gelo dei grandi boschi e non ne avevano paura. Si sentivano al sicuro e comode nella loro piccola casa di tronchi, con la neve tutta ammassata intorno. E il vento che gemeva, perché non poteva entrare a scaldarsi al fuoco.